Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. She's a princess. She's beautiful. And confidentially, she's a pixie. One night, she's the guest of honor at a glittering state reception. And the very next night... You have my permission to withdraw. Thank you very much. How did this cute little surprise package wind up in Questa è la dolce, indimenticabile voce di Audrey Hepburn al suo debutto cinematografico, quando fece veramente irruzione, no? Non solo sugli schermi di tutto il mondo, ma anche nell'immaginario di tutto l'Occidente, e nella parte di una ragazzina che strega letteralmente un giornalista americano. Tutto questo sullo sfondo della città più bella del mondo, almeno così sono convinti gli abitanti, dei suoi abitanti o parte di essi, ovvero Roma. Era Vacanze Romane, era una grande storia d'amore, un grande film, era Hollywood nel suo momento più classico e splendente, sia pure in bianco e nero, e ci permette, con una connessione grazie a una serie di pellicole che riecheggiano proprio esattamente quelle atmosfere, di porci nuovamente quella domanda che già all'epoca giornalisti di grande nome e anche, come dire, di molto spirito si posero sui giornali del tempo, ovvero: ma insomma, il mondo davvero crede questo, pensa questo di noi? Davvero dall'America sono convinti che l'Italia sia quella che gli americani stessi raccontano e dipingono nei loro film? Insomma, un posto gioioso dove ci si diverte molto, si mangia tantissimo, soprattutto ci si ama tanto e poi si fa una vita così un po' disordinata, caotica, ma in fondo anche di grande piacevolezza, e poi c'è quella meravigliosa natura che circonda il tutto, e poi ci sono uomini bellissimi e donne conturbanti. Beh, arriviamo al 2010, ai nostri anni 10, ne sono passati quasi una sessantina dalle Vacanze Romane di Gregory Peck e Audrey Hepburn, e ci accorgiamo che le cose più o meno stanno allo stesso modo. You wanna go away for a year? I used to have this appetite for my life, and it is just gone. I want to go someplace where I can marvel at something. I'm going to Italy, and then I'm going to India. Ecco qua, si è fatto il programmino, no? Julia Roberts va in Italia, va in India, va in cerca di se stessa soprattutto. Questo è il tema di un film che esce quest'estate in America e poi anche nel mondo. Si chiama It, Pray and Love. Julia Roberts, il grande ritorno, l'atteso ritorno di Julia Roberts nella parte di una divorziata triste. Dove va una divorziata triste americana? Va in Italia, fa la sua valigia, ci mette dentro Kleenex, ma ci mette dentro anche un abito da sera, e arriva in Italia. In linea di massima si innamorerà del primo maschio che incontra, di solito a bordo di una vespetta, no? Magari color crema, e poi soprattutto la signora in questione berrà molto vino, questa è la realtà, dirà anche molto vino, e poi un po' ubriachella, cederà al fresco. Al fresco, sapete che è un'espressione americana, gli americani hanno, gli inglesi hanno imparato a dire al fresco, dining al fresco, che è questa, no, è come la fraschetta italiana, questa ambientazione in cui si perdono un po' i sensi, un po' i freni, ci si lascia andare, e la donna americana si innamora del maschio latino. Avviene più o meno lo stesso anche in un film di regia italiana, Luca Guadagnino, che si chiama I'm in Love. Quando sono arrivata a Milano ho dovuto imparare a essere italiana. La fortuna della nostra famiglia è costruita sulla fabbrica. Lei è Tilda Swinton, il titolo I'm Love, io sono l'amore, ed è l'incarnazione, il suo personaggio, di una donna che è arrivata dalla Russia, dai tempi di Gorbaciov, in Italia, ha messo su famiglia, anche in questo caso la straniera che vive l'Italia come un'opportunità, ma soprattutto come un sogno, come un luogo dove rendere reali, no, le proprie aspirazioni, se queste aspirazioni sono aspirazioni di bellezza, di cultura, di un, no, un grande ambiance tutto intorno. Poi che succede? Che si imbatte in niente meno che Edoardo Gabriellini. No, ve lo ricordate il film di Virzì? Era un ragazzetto assai scherzoso, adesso invece qui fa la parte del cuoco, un cuoco tentatore, della quale naturalmente Tilda Swinton cadrà innamorata in I'm Love, in questa seconda pellicola. Ma ce n'è anche una terza, si chiama Letters to Juliet. Qui c'è Amanda Seyfried che interpreta la più triste delle verificatrici del New Yorker, quelle che cercano gli errori negli articoli e degli altri. Volerà a Verona e noi sappiamo bene, Shakespeare insegna che Verona è galeotta. Morale della favola, rassegniamoci. Panorami, oblio, tanto tanto cibo. L'Italia continua a essere terra di fuga, terra di vacanze, nascondiglio, in sostanza un parco a tema con rovine romane, almeno così la vedono dall'altra parte dell'oceano. I heard sirens on the train track, how they can get new. Out to bars, being at a local commuter, just walking with his back turned to the train that was coming so slow. You can gaze at the meter, getting mad and getting madder, throwing hands in the air, saying what does it matter, but it don't do no good to get angry, so help me. Anni 10. Parole. Sì, lo so che questo è suono, e che suono, insomma, sono i Sex Pistols, no? Nel loro momento breve e intensissimo di splendore, ma ricorrono invece nel nostro spazio dedicato a parole scritte, a libri e dintorni, perché è uscita una biografia, un'autobiografia molto importante, che con il punk, con i Sex Pistols, con tutta la scena musicale fine anni 70, primi anni 80, è strettissimamente connesso, perché il suo autore, che si chiama Nick Kent, era in realtà l'alter ego, la nemesi, la controparte, dite quello che volete, di tutto quello che accadeva sul palco, ovvero era una stella che stava sotto il palco, ma che forse era in quel momento anche più luminosa di quelle che stavano sul palco. Era il giornalista star. Adesso abbiamo gli archistar, no? Gli architetti star. All'epoca c'erano i giornalisti star, e comincia tra l'altro a essere anche un po' il momento di fare delle rievocazioni doverose, perché la sensazione è che con il passare degli anni, per esempio, possano venire su dei ragazzini magari appassionati di musica che neppure sappiano che cos'era il New Musical Express, il settimanale che per decenni e decenni, almeno dagli anni 60 fino agli anni 90, ha letteralmente fatto la funzione del termometro di quello che succedeva non solo nella scena inglese, ma in quella americana e anche in quella europea. Si correva anche in Italia, a Milano, a Roma, nelle edicole specializzate a comprare il nuovo numero del New Musical Express per capire cosa di nuovo c'era nell'aria, e la firma principe del New Musical Express era appunto questo giornalista chiamato Nick Kent, cattivo, più cattivo e più selvaggio dei punk, più maledetto dei poeti maledetti, più trasgressivo dei più trasgressivi rocker. La sua autobiografia si chiama Apathy for the Devil, no, facendo il verso alla canzone dei Rolling Stones, Sympathy for the Devil, apatia verso il diavolo. A lui non gliene fregava nulla, ed è un grande titolo. Si è mossa addirittura sul Guardian niente meno che Julie Burchill, ovvero la più nota giornalista inglese delle culture giovanili di fine Novecento, per recensire il libro, naturalmente malissimo. I due sono sempre stati amici ma anche molto rivali. Nel libro Nick Kent parla malissimo di Julie Burchill, che naturalmente ricambia immediatamente nella recensione del libro stesso. C'è tanto da leggere, c'è tanto sia splendore letterario, ma c'è anche tutto quello stupore, no? Il desiderio, l'audacia di essere giornalisti in un momento in in cui la cultura giovanile produceva cose come quelle che è stata capace di produrre in musica a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80. La Burchill accusa Nick Kent di mentire e dice che adesso lui scrive male, in fretta, vuole solo i soldi, ma vi posso garantire che questa autobiografia, se siete appassionati di musica inglese e di musica di quegli anni, è una lettura obbligata. Io ho un ricordo personale, tra l'altro, legato a Nick Kent, che mi trovai a fianco a Marino, nei Castelli Romani, il giorno in cui, uno di quegli episodi un po' strani che capitano, no, in Italia, nella scena musicale italiana, i Nirvana suonarono al Palaghiaccio di Marino, perché è successo anche questo. I Nirvana a Roma hanno suonato due volte, una volta in una cantina senza finestre davanti a quattro spettatori e la seconda volta al Palaghiaccio di Marina, perché di Marino, perché boh, non lo so, però erano finiti lì e fu una notte memorabile per molti versi, anche perché era praticamente l'ultimo concerto dei Nirvana insieme, poco dopo si sarebbero diciamo separati momentaneamente, ma poi di lì in poi la vita di Kurt Cobain sarebbe durata assai poco, e io mi trovai a fianco Nick Kent, ormai vecchio e stagionato ma selvaggio come sempre, che guardava il concerto. Attaccammo discorso e io gli dissi quanto tutto ciò che stavo vedendo mi sembrava straordinario, ovvero in sostanza quanti Nirvana fossero un gruppo formidabile. Uno non se lo aspettava, no? Sentendo i dischi, o magari pensava ci fosse molta pubblicità, molta chiacchiera intorno. Il gruppo era semplicemente eccezionale. Nick Kent mi guardò con questa sua faccia ancora molto cattiva e mi disse: la sai una cosa? Quello che sta suonando lì sul palco è un cadavere che cammina. History repeats the old conceits. The clip replies, the same defeats. Keep your finger on button issues with crocodile tears and a pocket full of tissues. Questo è un Elvis Costello Dannata, tratto da un album che si chiama Imperial Bedroom. Che succede? Succede una cosa strana, che un autore, un romanziere americano che ebbe un formidabile successo negli anni Ottanta, lui si chiama Bret Easton Ellis, il suo romanzo si chiama Less Than Zero, aveva tratto il titolo di questo romanzo, Less Than Zero, proprio da una canzone di Elvis Costello. Vi ricordate? In toni minimalistici raccontava la vita dei giovani americani all'insorgere dell'edonismo e al tramontare degli ideali, mettiamola così, sullo sfondo straordinaria di una Los Angeles che era tanto effimera quanto tentatrice e quant'altro. Adesso Ellis, che nel frattempo ha fatto una grande carriera, no, che tutti abbiamo seguito con il succedersi dei suoi romanzi, è tornato sul luogo del delitto, ovvero ha scritto il sequel di Less Than Zero, e per farlo ha rispolverato Elvis Costello e ha dato a questo suo nuovo romanzo il titolo di un altro disco di Costello, per l'appunto Imperial Bedrooms. La sorpresa è che le recensioni del libro uscite sulla stampa americana, le prime recensioni del libro sono assolutamente entusiastiche, si grida al nuovo capolavoro, e questo è abbastanza strano perché per anni Bret Easton Ellis è stato maltrattato dalla critica, che in un certo senso voleva fargli un po' scontare, no, quel successo così prematuro. Torna tutto il cast dei vivi, di quelli che ce l'avevano fatta a uscire vivi da Less Than Zero, torna, e naturalmente hanno 20 e passa anni in più, sono uomini fatti. C'è Clay, no, il protagonista, il narratore di Less Than Zero, che adesso fa lo sceneggiatore, ci sono le sue donne o ex donne, soprattutto c'è Los Angeles, una Los Angeles che è molto meno brillante e attraente di una volta, i costumi dell'edonismo sono decisamente impolverati, ci sono ancora i dettagli maniacali per i quali Ellis va famoso, i lunghi elenchi di luoghi, nomi, etichette, brand e quant'altro. C'è tanto Chandler, a più riprese questo libro è stato paragonato al lungo addio di Raymond Chandler, e viene comunque annunciato come il primo libro, il primo romanzo americano veramente capace di intercettare la giusta temperatura, almeno dall'altra parte dell'oceano, dell'essere magari di mezza età in questi tempi difficili. Death is not the end. The 56-year-old American poet, a Nobel laureate, a poet known in American literary circles as the poet's poet. Allora, David Foster Wallace ricorre spesso in questo nostro programma perché, nonostante abbia messo fine ai propri giorni nel 2008, ci sembra una delle permanenze, una delle voci in sospensione più contemporanee per quello che riguarda la narrativa americana, ma non solo americana. Basta vedere quanti scrittori italiani, per esempio, amano citarlo o addirittura seguirne il solco, lo stile, quella strana sospensione tra la logica e i desideri, la fantasia, quel tentativo di conciliare, di dare un senso, di trovare un senso anche a cose che magari, come dice una famosa canzone, di senso non ne hanno mica tanto. Comunque, la Columbia University Press, molto venerata e stimabile, dà alle stampe niente meno che la tesi di laurea di David Foster Wallace. La motivazione è interessante e ve la leggiamo, una lettura che potremo fare presto perché uscirà ancora prima del Pale King, ovvero il romanzo inedito, rimasto inedito e non compiuto, di David Foster Wallace. Dice la motivazione della università: per capire la genesi di un grande romanziere e per seguire gli inizi della sua lotta alla ricerca di una logica all'origine di alcune sue amare convinzioni. Quindi, per conoscere ancora più intimamente David Foster Wallace, leggere, cosa meglio, leggere la sua tesi quando era un ragazzino pieno di speranze. Hai già comprato l'iPad? No, ma l'iPad non convince. Oh, ma ce la fai, è bello di brutto. Beh, su YouTube girano cose come questo qua, la presa in giro degli spot della Mac fatti da ragazzetti toscani, sono anche piuttosto divertenti. Tutto questo per citarvi un articolo che esce su Newsweek che si chiama Rest in Peace Macintosh, lamento di un grande giornalista che dice: senti Steve Jobs, a forza di inventare nuove diavolerie ti stai scordando dando i computer, noi vecchi utenti non ti perdoneremo mai. E invece un articolo del New York Times dove Steve Jobs rende omaggio a Amazon, al Kindle, al primo lettore di ebook, e dice una cosa del quale tener conto. Dice: guardate che il nuovo mercato è quello della lettura elettronica. Noi monteremo sulle spalle del grande lavoro fatto da Amazon e andremo naturalmente molto oltre. È un po', come dire, la benedizione, sancisce la nascita ufficiale di questo nuovo mercato come dire, il continuare di questa emotività Apple, questa capacità di condizionare non solo il mercato, i costumi, addirittura i modi di pensare, i modi di consumare, che quest'uomo continua ad avere. Peraltro già si annuncia il nuovo iPhone con dove addirittura viene resuscitata la videochiamata, pensate un po', uno dei fiaschi del secolo. Vedremo se anche lì avrà il tocco di Mida. Anni 10. Suoni. Allora, nello spazio musicale di anni 10 oggi ci occupiamo di un genere che ci sta particolarmente a cuore perché ci sembra così, un genere di compromesso che però in un certo senso rappresenta, raccoglie tanto del senso della musica contemporanea americana di oggi. Si chiama alternative country, ovvero la rilettura, ma sarebbe meglio dire il riuso del country, della musica delle tradizioni, quando addirittura non di spezzoni, di segmenti del folk, in chiave alternativa, quindi intinta di spirito indipendente, di voglia di rinnovare, di cambiare, di contaminare, di toccare. E allora viene alla mente un nome, che è quello dei J-Hawks, che sono stati forse la band che per prima ha sancito, no, la nascita di questo genere e l'ha incarnata meglio negli anni 80, a metà degli anni 80, una band di Minneapolis con due leader, no, i loro Lennon McCartney, che si chiamano Mark Olson e Gary Louris, una band che si è sciolta ma poi adesso si è riformata, perché ne abbiamo parlato tante volte, ad anni 10 questi signori rocker arrivati a 50 e passa anni non sanno cosa fare della loro vita, e se hanno interrotto gruppi o carriere prontamente li rimettono in piedi. Anche i J-Hawks sono in piedi, quindi la loro produzione discografica è destinata a ricominciare, ma nel frattempo esce una vera e propria rarità, una specie di non so, Smile dei Beach Boys, non so, sapete quei dischi mitici di cui da tanti anni si parla ma pochi l'hanno sentito. In questo caso si chiama Bunkhouse Album ed è il primo mitico album dei J-Hawks, uscito in diverse versioni, ma adesso finalmente edito nella sua versione originale. E dal momento che i J-Hawks di questo genere, come vi dicevo, in un certo senso sono i padrini, noi festeggiamo questa uscita, li ascoltavamo prima e li ascoltiamo ora. Questa si chiama Falling Star. E allora, bentornati, welcome back, J-Hawks. Allora, quindi J-Hawks nuovamente in circolazione, ma questo loro album che risale al 1986, pensate un po', la bellezza di 24 anni fa, che finalmente trova una pubblicazione ufficiale, si chiama The Bunkhouse Album, disponibile in CD, downloading e quant'altro. Nel frattempo, tra l'altro, sia Mark Olson che Gary Louris, nel lungo iato della loro, del loro gruppo, della band, hanno seguito delle carriere soliste interessanti. Ci sono dei dischi a nome di Mark Olson e Gary Louris piuttosto interessanti da cercare e da ascoltare. La settimana scorsa vi ho parlato di un disco che era un po' un sintomo di una tendenza, no? La rivisitazione da parte di una serie di artisti del capolavoro di Graham Nash, quello di Crosby, Stills, Nash & Young, Songs for Beginners, rifatto da una serie di artisti. Ciascuno aveva rifatto una sua canzone con grande devozione, con grande commozione, un'operazione certamente riuscita, e come dicevamo la settimana scorsa, un'operazione un po' sintomo, no? In un certo senso l'incapacità, ma forse neanche l'assenza di voglia di liberarsi di questi grandi padri che musicisti, peraltro in gambissima, come quelli della nuova generazione americana dimostrano, denotano, non vogliono rinunciare, queste sono le loro radici, questa è la loro appartenenza, questi sono i modelli, e vengono celebrati, ricantati, riusati e certamente anche tenuti vivi. E pensate un po' che questa operazione si ripete nuovamente con un altro padre, in questo caso siamo in territorio di alternative country, quindi un grande padre del country americano, si chiama John Prine, un uomo del 46, quindi 65 anni, ancora attivo artisticamente, anche se ultimamente vessato da tutta una serie di problemi di salute che hanno reso la sua carriera così un po' a corrente alternata. Famoso in un'associazione, in un duo che a lungo ha tenuto in piedi insieme a Steve Goodman. John Prine e Steve Goodman sono due dei padri del country, country di strada, country non troppo celebrativo, non troppo legato all'estetica di Nashville, più una voglia di spostarsi anche in senso un po' letterario, magari contaminato appunto dal grande immaginario di Springsteen e dintorni. anche a John Prine, una serie di artisti della nuova generazione americana ha deciso di dedicare un album omaggio. E quindi ancora una volta ragazzi di 20-25 anni cantano canzoni scritte da un signore che ne ha 65 e le ha scritte 20-30-40 anni fa. L'omaggio a John Prine ha un eccellente roster di partecipazioni, ci sono artisti di grandissimo richiamo, fra cui Justin Vernon, altrimenti noto come Bon Iver, secondo me forse la stella più luminosa del panorama indipendente americano, o come i Morning Jacket, che invece sono una delle band più solide della scena indipendente d'oltreoceano. Qui cantano All the Best, appunto scritta tanti anni fa da John Prine. I wish you love and happiness. I guess I wish you all the best. I wish you don't do like I do and ever fall in love with someone like you. Insomma, avete capito qual è una tendenza reale del presente, questi anni 10? È guardare indietro, no? Guardare al passato e celebrarlo e riviverlo, guardare indietro ma in modo contemporaneo, reinterpretando, tenendo vive queste storie, anche queste leggende della musica. Graham Nash, adesso John Prine, che vengono ripresi, no? Ripresi per i capelli dai giovani musicisti americani. John Prine è un tipo veramente da automobili che corrono sulle strade assolate, da autoradio, da cinema indipendente americano degli anni 70, vi ricordate i film di Bob Rafelson o di Al Ashby? Siamo da quelle parti e è molto interessante trovarlo reinterpretato da artisti come questi, Morning Jacket che abbiamo appena ascoltato, o un'altra band che viene dalla Carolina di cui si parla benissimo ultimamente sulla stampa specializzata, si chiamano gli Avett Brothers e anche loro danno il contributo a questo omaggio a John Prine con un titolo, Spanish Pipe Dream. Blow up your TV, throw away paper, move to the country, build you a home. Anni 10. Figure. Jamal deve rispondere alla domanda finale per vincere 20 milioni. Come ha fatto ad arrivare fino a qui? Insomma, questa è stata la svolta a sorpresa nella carriera di Danny Boyle, The Millionaire, no? Il film Slumdog Millionaire, che ha fatto sfaracelli al botteghino americano, agli Oscar, e ha trasformato quello che era nato e si era presentato come un regista trasgressivo della nuova scena britannica invece in un protagonista mainstream, diciamo, dello show business, dello spettacolo, o forse addirittura planetario. No, veniva da Trainspotting, dalla trasposizione cinematografica del romanzo di Irving Welsh, da quella illuminante, non so se è la parola giusta, scena nella tazza del cesso. Insomma, chi può dimenticare cosa può accadere a chiunque metta la testa dentro la tazza del cesso? Chi lo potrebbe rappresentare meglio di quanto ha fatto Danny Boyle in quella memorabile occasione? Bene, la notizia che riguarda Danny Boyle, dopo tanti successi e riconoscimenti, è che probabilmente proprio a lui verrà offerta la responsabilità di curare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012. Pensate un po', in teoria, in apparenza una trombonata formidabile nelle mani di un regista, autore di una visione, del titolare di una visione così particolare come Danny Boyle. Per però poi la notizia, dopo averla appresa, non è ancora confermatissima, però anche lui ha detto che effettivamente i dialoghi sono ben, le conversazioni sono ben avviate, insomma, ci si sta andando. Così, ragionando un po' sulla questione, le idee che ci sono venute ci sono poi piaciute, no? Nel senso che potrebbe venire fuori qualcosa magari non di tradizionalmente olimpico quanto a grandeur, ma nel 2012 la sensazione che saranno anche olimpiadi così un po' spartane, un po' di crisi, recessione, post-crisi. Ma al tempo stesso invece è probabile che una intelligenza brillante come Danny Boyle, che tra l'altro è un uomo simpaticissimo, divertente, è un compagno di birrozza, non so come dire, è veramente una persona di grande qualità, saprebbe dare alla manifestazione, alla cerimonia, un imprinting, credo. Al tempo stesso molto Brit, no? Molto britannico, lontano magari da quelle visioni di globalizzazione che ormai hanno un po' lasciato il tempo che trovano, sicuramente è molto molto rock, e quindi, come dire, una notizia che ci rallegra, e c'è la possibilità che questa volta uno spettacolo che di solito viene evitato, come dire, come una pestilenza, come la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, lo si veda con piacere. Io non so se il troppo stroppia, come si dice, perché ne parlavamo un paio di mesi fa, tre mesi fa, quattro mesi fa, insomma di recente, del exploit di Lady Gaga in versione video, e quindi della multidisciplinarietà di questa nuova artista che ormai a tutti gli effetti nel frattempo ha raccolto lo scettro di Madonna, no? È la nuova Madonna, non so se i valori sono gli stessi, ma comunque di fatto il quoziente di celebrità sembra più o meno paragonabile, perché dopo aver fatto quello che ha fatto con il suo monumentale, lunghissimo, tarantiniano video telephone, ci torna uguale, nel senso ne fa un altro da 10 minuti che si chiama Alejandro, da questi toni così spagnoli un po' flamencati, e fa un altro video di 10 minuti con una firma assolutamente autorevole, quello di Steven Klein, che è poi peraltro l'autore di tanti video di Madonna, con addirittura un panorama di stranezze che quasi sconfinano un po' nel surreale, se non nel ridicolo, insomma reggiseni che sparano e via di questo base, e con un immaginario sinceramente un po' inquietante. Io non so, lo definirei nazi latin o latinazi, non so, quello che ha messo in piedi Lady Gaga o i suoi stilisti di fiducia per questo video, secondo me, passando, no, nel giro di pochi mesi da un quasi capolavoro come era Telephone a una decisa pacchianata, e quindi se va detto noi lo diciamo, naturalmente andate su internet e date un'occhiata, perdete 9 minuti per vedere Alejandro e poi fateci sapere, ma secondo noi, come dire, a questo giro no, un flop, via. Sono passati 2 anni, qui c'è anniversario, tu e io, solo noi due, e in 2 anni possono accadere cose straordinarie. Ce l'ho fatta! Non ce la faccio mai! Vabbè, avete capito di che cosa si tratta, ma noi prima la parola flop mica l'abbiamo usata per caso, perché vogliamo chiudere la puntata di oggi parlando essenzialmente di flop, ovvero l'estate del nostro, del loro in realtà, scontento, ovvero Hollywood che comincia a piangere, e il cinema che in America, forse saprete bene, d'estate ha la sua alta stagione, escono i grandi film, soprattutto quelli commerciali escono d'estate, che stanno andando malissimo. I dati sono piuttosto inquietanti, i cosiddetti blockbuster, no, d'inizio estate hanno sparato tanti colpi, ma quasi tutti a salve, e le nostre ragazze, tra molte virgolette, di Sex and the City si sono sono rivelate un fiasco formidabile, anche Iron Man, Shrek, Robin Hood, Prince of Persia, le cose vanno male, da tanti anni non c'era un inizio di estate senza un film da almeno 20 milioni di dollari, che sono praticamente spiccioli, ma quest'anno invece sì, è la grande recessione di Hollywood, se ne occupano non solo le riviste di settore ma anche i grandi media americani seriamente preoccupati. L'annata sembrava cominciata così bene con Avatar che ha superato il miliardo, poi è arrivato Alice ancora al miliardo, poi boom, improvvisamente una raffica di film che non fanno una lira. Ti sei chiesto come hai potuto trovare un simile tesoro? Hai voglia a dire non fanno una lira? Non fanno una lira perché bisogna darglieli i soldi, e questo è un po' il problema su cui gli addetti ai lavori ragionano, ovvero vale la pena di dar soldi a costoro? Su Time, per esempio, c'è un'analisi molto approfondita di questa crisi del cinema e le ragioni esposte noi, come dire, le condividiamo al 100%. Ad esempio, si va meno al cinema, soprattutto il pubblico giovane ormai non va più al cinema con quella militaresca abitudine che avevano le generazioni precedenti. Adesso si va al cinema ogni tanto, ma perché si decide di andare al cinema anziché fare un'altra cosa? Prima invece si andava morettianamente al cinema, non si perdevano le nuove uscite. E poi c'è anche il discorso della qualità. In un certo senso sono i sequel ormai quelli che dominano le nuove uscite cinematografiche, non c'è altro che numeri 2, numeri 3, numeri 4. Prima i successi erano altre cose, non c'era un Ben-Hur 2, no? Non c'era un tutti insieme ancora più appassionato di prima, non c'era un Via col vento, domani non è un altro giorno perché domani è oggi, insomma tutte queste cose non c'erano, e c'erano meno sequel, e quelli che c'erano neanche andavano troppo bene. Adesso siamo sicuri che abbiamo proprio voglia di vedere Ocean 14 o 15, non mi ricordo dove siamo arrivati, o che i Pirati dei Caraibi abbiano ancora qualcosa con cui intrattenerci? La sensazione un po' è che le idee siano finite, i generi siano un po' al capolinea, il 3D, come dire, alla lunga stufa, e che i biglietti costano troppo. Ci vogliono $100, $70-80 euro per una famigliola al cinema. Di questi tempi, I bet she thinks the world of me, she's walking out the door. Misery Tavern, it's the only place I know. Certo, poi c'è la televisione, poi alla fine viene un po' di malinconia, no? Tutti intorno alla televisione, siamo ancora al focolare elettronico, ma quale focolare? E poi non è neanche più elettronico. Comunque, anni 10 di queste tematiche per Mandato si occupa. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti. Abbiamo un profilo Facebook dove potete risalire a tutte le cose di cui vi abbiamo parlato, da Jay Hawks, Lady Gaga, i film in crisi, l'iPad e quant'altro. Si chiama Anni 10 Radio 24 oppure Anni 10. Abbiamo una mail, anni10@radio24.it. Un appuntamento tra una settimana e un augurio. State tutti bene.